Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina, oggi è il 17 gennaio, è la prima edizione di Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 nella cronaca italiana, i casi di nera giudiziaria, ma anche il costume e lo spettacolo. Le figurine Panini compiono 50 anni, attraverso i volti dei calciatori si può certamente ricostruire la storia d'Italia dagli anni 50 ad oggi. Il reportage di Marcello Marinaro. Iniziò alla fine del 1960, quando Giuseppe Panini trovò un lotto di vecchie figurine sfuse, invendute, delle edizioni Nannina di Milano. Le acquistò e le mise in vendita a 10 lire a bustina con due figurine. Fu un successo. 3 milioni di bustine vendute. L'anno successivo Giuseppe e i suoi fratelli decisero di fare tutto in casa, stampando le figurine e realizzando anche il primo album. In copertina il grande giocatore del Milan di allora, Nils Lidholm, il barone. Il risultato fu clamoroso, 15 milioni di bustine vendute. Era nata la collezione calciatori. La Panini compie 50 anni e l'album 2010-2011 si presenta con molte novità, come spiega Antonio Allegra, direttore marketing dell'azienda modenese. 50 anni, una storia lunga, da un lato vogliamo un po' celebrarci e quindi partendo dai fratelli Panini dai primi anni 60 quando hanno creato questa magia, dall'altro guardiamo già in avanti e quindi parliamo di un prodotto ricchissimo al passo con i tempi che racconta il calcio che cambia. Certamente all'interno dell'album trovano spazio anche sezioni in qualche maniera celebrative, penso a una sezione come Calciatori 50 con le 50 copertine e alcuni esempi di figurine che sono un po' il segno dell'Italia che cambia, dell'Italia che si evolve, quindi in qualche maniera noi raccontiamo la storia d'Italia. Un'altra sezione un po' celebrativa è Frammenti di storia. Queste sono 20 figurine misteriose che si scopriranno poi su internet nel sito calciatoripanini.it con appunto dei frammenti, delle immagini, dei disegni che raccontano particolari della nostra storia. Tanti collezionisti in 50 anni hanno cercato le famose figurine mancanti per l'album e la più famosa potrà ricordarci lei qual è? Certo, è il mitico introvabile Pizzaballa, è quindi la figurina di questo portiere dell'Atalanta della collezione 63-64 che effettivamente risultò introvabile, almeno in una prima fase della distribuzione, in quanto non stampata. Pizzaballa non era presente in ritiro il giorno che il nostro fotografo andò a fare appunto le foto, venne aggiunto in un secondo momento, ma in una prima tiratura non c'era. E quindi nasce il mito e devo dire che Pizzaballa tutt'oggi ricorda questa cosa. Perché? Perché? Cosa significa per un calciatore diventare una figurina Panini? Lo abbiamo chiesto a Felice Pulici, portiere della Lazio tra gli anni 70 e 80. Per un giocatore è molto importante perché è una delle primissime cose che fa un giocatore di calcio è quella di vedersi così rappresentato sull'album. Quando ti accorgi che l'album ti ha accettato, no? Quindi c'è lo spazio per te, quindi vuol dire che in quel momento allora hai raggiunto la maggiore età. Per un calciatore, soprattutto in passato, essere raffigurato sulle figurine Panini è sempre stata anche una questione di prestigio. Lo spiega Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Per i calciatori tanto, per chi è stato calciatore allora probabilmente di più, perché la figurina Panini era uno status, quando arrivava un ragazzotto in squadra e voleva fare un po' l'arrogante così, l'anziano diceva stai buono, stai al tuo posto che ancora non sei nell'album delle figurine, quindi era significativa una cosa. Oggi con la comunicazione che è cambiata, che si è ampliata, probabilmente è un po' meno, però rimane il fascino della carta, il fascino anche della carta stampata, il fascino degli appunti e che li corregge, ecco, io credo che non perderà mai questo fascino. 50 anni di storia della Panini e dell'album Calciatori sono anche mezzo secolo di storia degli italiani e della loro seconda religione. Le figurine Panini vengono scambiate e vendute anche a caro prezzo dai collezionisti come fossero veri e propri santini da conservare gelosamente. Italia in controluce.